quello che è la cifra, diciamo, è quella lì. Vediamo bene. Avanti, Gigi. Sto collegando Massimiliano. Va bene. Va bene. Grazie a tutti. e poi se anche io se riesco a dare questo flusso non lo tanto mi tengo quell'altro che mi arriva, quindi tanto tenere cose doppie così non mi interessa più. Cava cava Gigi. Ma anch'io avevo rinascendo l'amato qua e metterò un'antennina semplice per fare qualche prova, provare qualche apparatino, tanto non mi interessa più di tanto, non mi interessa più di tanto, quella siccome è molto ingombrante sopra il tetto prendo la scendo giù, quella ne rascendo, metterò un'antennina più piccola che via meno problemi, meno vistosa. Ormai quella lì è sul tetto, non la vivo, la dico a tutti. Pure la fare. Lei la scendo, non mi serve più di tanto, le metto un'antenna, una diversa, più piccola e boh. Ma io questa che mi daranno sicuramente la darò ancora, io in costante ci vuole fare la stazione a casa. Mi busco il radiale e ciccia. D'altro io non mi emoziono, io già ce l'ho sul tetto la mattola, quindi averne un'altra non mi interessa. Però a Costanzo sì, tanto ho detto che si vuole fare la stazione a casa, e busco il radiale e gliela do, mi godisce la piazza. Positiva. Poi a 300 già sono buoni, no? Già 3 a 2, 9, 9, 9. Usati proprio, lo so, vuol dire poco. Adesso sono un fanici. E poi ce l'ho io. C'è un attimo rumpa che sta vendendo 50 euro. Ma io ce l'avevo già. Infatti mi ha dato un buttino lui. C'era la commissione a 4, ho spostato due fili. L'ho messo sulla radio che avevo comprato da Mario Mama e c'è un piano là. Ho già provato, ma molto molto bene. Via via, cara gara. Però andava bene anche con quello, però uscivo bene anche l'altro giorno con quello che ho provato con più 4 mi sembra, no? Sì, ma se lo sentivo quello è molto più forte. Io farò una bella radio da mettere gente a voglia. Ho detto, c'era tutta una scatola, c'era la roba di anni lì conservata, dentro la conservata bene, dentro la busta di nylon, tutti quelli chiusi per non entrare umidità e cose così. Ho detto, per tenermeli fermi così dentro il garage buttati, tanto io non volevo più, vieni, ti prendi via tutto, tanto come mosse più lunga. Ah, vabbè. Infatti stamattina l'ho chiamato, invece i figli ci avevano un'esibizione, non so di cosa, e non c'era, se no se n'è andato stamattina a prendermi. Migliorie, positivo. Sta sempre bene, sta andando alla radio, e qui sa che non tratto mai, fa sempre bene. Ma la porteria sì adesso. È sempre andata bene, no? Era tanto che dobbiamo vedere i fatti. Guarda se gliela abbasso un po', Massimiliano. Come se, peggio se la abbasso. Ma riattagli, non cambia niente da parte mia. È la radio, guarda, così li ho chiusi tutti. Così ce ne va. Beh, se ci sono fatti, quello lo devi vedere tu, ma comunque la radio è sempre forte. Sì, a zero di fatto. Magari è troppo vicino, capito, siamo troppo vicino, a me mi arriva un bel forte. Claro, a te come lo ascolti? Positivo, aspetta che la mettiamo così, sono a metà. Così a metà, così non lo so, Massimo. Io non ho più differenza. Il segnale invece è sempre lo stesso, da così a così. Così è il minimo, è un passaggio, così è l'altro, me li sto aumentando, e così è l'altro. Io li aumenteranno piano per 20. Così saranno 10 watt, 15 watt, non lo so. No, l'ho regolato a 22-25, se non mi ricordo, perché arriva, al massimo arriva a 40 questo, però gliel'ho abbassati io. Gliel'ho abbassati a 25 al massimo, là. Quella, invece quella là cosa c'ha? MOSFET. Cosa? Cosa? Due finali questo baracchino, 1969 ne ha tre in fila. Ehi, ehi, ehi. che pagava e a voi gli hanno dato infatti con la radio. Era 44, 45, una cosa così. Sai, c'era avuto tolto, guarda, quella scheda, i figli, e messa una di quelle schede là. Ma provarla. Non mi sono mai abilitato ad andare a cambiare qualche linea, vedere. Ma c'è ancora a ciamballo. Ma è questo il coso però, lui. Questo è quel presidente, mi pare, o no? Quello vero. E vuol dire di lui, e non le fate le questi canali, no, dopo la prima. Non lo so, perché qua c'è la scheda, ecco, sua, originale dalla casa, capito? C'è la sua scheda, che dovrebbe essere inserita se c'è scritto. Sì, insomma, ma non è proprio una scheda, ecco, è un reverbero, là. Un coso cattedrale. Sì, ma questa è quella che puoi mettere l'altra. La montagnina è largarsi l'altra, a vedere cosa succede. Leggere, però essere molto forte. Ciao ragazzi, beh, signori belli, io pochino, al limite ci sentiamo dopo se ci siete, dai. Buona continuazione di serata, dopo se ci siete, ciao ciao. Ciao Massimilia, a dopo, ciao ciao. E anch'io se ne vado su a casa da qua, mi sposto e me ne vado dall'altra parte e riattacco da là. Quindi dai, io vi saluto a te due, vi stavo ascoltando, sto facendo quello anch'io. Statevi bene, buona serata, dai. Ci sentiamo. E positivo, ciao Claudia, ciao, ciao, sei al limite, ci ascoltiamo più tardi.